Madame Swan, vedendo quali proporzioni stava assumendo l'affare Dreyfus e temendo che le origini del marito potessero ritorcersi contro di lei, l'aveva supplicato di non parlare mai dell'innocenza del condannato. Quando poi Swan non era presente, lei si spingeva oltre, sino a far professione del più acceso nazionalismo. In ciò, d'altronde, non faceva che seguire le orme di Madame Verdurin, nella quale si era risvegliato e aveva raggiunto un grado di autentico parossismo, un latente antisemitismo borghese. Grazie a questo atteggiamento, Madame Swan era entrata in qualcuna delle leghe antisemite che cominciavano a formarsi fra signore dell'alta società e aveva stabilito parecchi contatti con personaggi dell'aristocrazia. Potrà sembrare strano che, lungi dal limitarli, la duchessa di Guermantes, che pure era tanto amica di Swan, avesse invece opposto un'ostinata resistenza al suo esplicito desiderio di presentarle la moglie. Era, come si vedrà in seguito, un riflesso del particolare carattere della duchessa, la quale, una volta che avesse stimato di non dover fare questa o quella cosa, imponeva dispoticamente le decisioni del suo libero e alquanto arbitrario arbitrio mondano. «Vi ringrazio d'avermi avvertita», rispose Madame de Guermantes. «Per me, in effetti, sarebbe stato molto sgradevole, ma siccome di vista la conosco, farò a tempo ad eclissarmi». «Ti assicuri, Oriane, che è gradevolissima, è una donna eccellente», intervenne Madame de Marsan. «Non ne dubito, ma non sento proprio il bisogno di accertarmene personalmente». «Sei invitata in casa di Lady Israel?» le chiese Madame de Villeparisis per cambiare discorso. «No, grazie a Dio non la conosco», rispose la duchessa. «E a Maria Hénard che dovresti chiederlo. Lei la conosce e mi sono sempre domandata come sia possibile». «Effettivamente l'ho conosciuta», ammise Madame de Marsan. «Confesso i miei errori, ma sono decisa a non conoscerla più. Pare che sia delle peggiori e che non ne faccia mistero. Del resto siamo stati tutti troppo fiduciosi, troppo ospitali. Non frequenterò mai più persone di quella schiatta. Avevamo vecchi cugini di provincia, del nostro stesso sangue, ai quali chiudevamo in faccia la porta e intanto la aprivamo agli ebrei. Ed ecco in che modo ci ringraziano. Ahimè, non spetta a me parlare, ho un figlio adorabile che va in giro a declamare, da quel giovane sventato che è, ogni genere di spropositi», aggiunse, accorgendosi che il signor d'Argincourt aveva alluso a Robert. «Ma a proposito di Robert, non l'avete visto?» chiese a Madame de Villeparisis. «Oggi è sabato, pensavo che avrebbe passato la giornata a Parigi e in questo caso sarebbe venuto sicuramente a trovarvi». In realtà, Madame de Marsan pensava che il figlio non avesse ottenuto il permesso, ma poiché in ogni caso sapeva che, qualora l'avesse ottenuto, non si sarebbe fatto vivo con Madame de Villeparisis, sperava, fingendosi convinta del contrario, di indurre la sua suscettibile zia a perdonargli tutte le visite che non le aveva fatte. «Robert qui, ma se non mi ha nemmeno scritto due righe, sarà dai tempi di Balbec che non lo vedo». «È così impegnato, ha tanto da fare», disse Madame de Marsan. Un sorriso impercettibile fece ondeggiare le ciglia di Madame de Guermantes, mentre fissava il cerchio che veniva tracciando sul tappeto con la punta del suo ombrellino. Ogni volta che il duca aveva trascurato troppo apertamente sua moglie, Madame de Marsan aveva energicamente preso, contro il fratello, le difese della cognata. La duchessa serbava, di quella protezione, un ricordo riconoscente e astioso, e non era turbata più di tanto dalle scappatelle del nipote. In quel momento, apertasi di nuovo la porta, entrò Robert. «To, quando si parla del Saint-Lieu», disse Madame de Guermantes. Madame de Marsan, che volgeva le spalle alla porta, non aveva visto entrare il figlio. Quando lo scorse, la gioia diede davvero in quella madre come un battito d'ala. Il suo corpo si sollevò a mezzo, il viso palpitò e gli occhi fissavano Robert pieni di meraviglia. Come? Sei venuto? Che felicità, che sorpresa! Ah, quando si parla del Saint-Lieu, ho capito, disse il diplomatico belga ridendo di gusto. Delizioso, replicò seccamente Madame de Guermantes, che detestava i giochi di parole e nell'azzardare quel bisticcio aveva mostrato d'essere la prima a burlarsene. Buongiorno, Robert, aggiunse. Ebbene, ecco come ci si dimentica d'una zia. Parlarono un istante fra loro, di me. Probabilmente, perché mentre Saint-Lieu si avvicinava a sua madre, la duchessa si volse dalla mia parte. Buongiorno, come state? Mi disse. Lasciò spiovere su di me la luce del suo sguardo azzurro, esitò un istante, dispiegò e distese lo stelo del suo braccio, sporse in avanti il corpo che subito si raddrizzò all'indietro come un arbusto che, piegato e poi lasciato libero, torni alla sua posizione naturale. Era, nel far questo, sotto il fuoco degli sguardi di Saint-Lieu, che la teneva d'occhio e faceva, a distanza, sforzi disperati per ottenere dalla zia qualcosa di più. Temendo che la conversazione si spegnesse, corse ad alimentarla e rispose per me: «Non molto bene, è un po' stanco. Del resto, starebbe meglio se ti vedesse più spesso». Perché non ti nascondo che adora vederti. Ah, ma che gentile! Disse Madame de Guermantes con un tono volutamente banale, come se le stessi porgendo il mantello. Ne sono lusingata. Tieni, vado per un po' da mia madre, ti cedo la mia sedia, mi disse Saint-Lieu, obbligandomi così a sedere accanto alla duchessa. Restammo in silenzio tutte e due. Vi vedo qualche volta di mattina, mi disse poi, con l'aria di annunciarmi una novità e come se io invece non la vedessi mai. Fa molto bene alla salute. Orian, la interpellò sottovoce Madame de Marsan. Dicevate che sareste passata da Madame de Saint-Ferréol. Sareste tanto gentile da dirle che non m'aspetti a pranzo? Resterò a casa, visto che c'è Robert. E non so se osare chiedervelo. Potreste lasciar detto ai miei che vadano subito a comprare dei sigari Corona. Piacciono tanto a Robert e siamo rimasti senza. Robert s'avvicinò. Aveva captato il nome, solo quello, di Madame de Saint-Ferréol. Cos'è quest'altra storia di Madame de Saint-Ferréol? Chiese con un tono di sbrigativo stupore, giacché affettava di ignorare tutto quanto concernesse il gran mondo. Ma via, caro, lo sai benissimo, rispose la madre. E la sorella di Varmandois ti aveva regalato, ricordi quel bel biliardo che ti piaceva tanto? Davvero? E la sorella di Varmandois? Non ne avevo il minimo sospetto. La mia famiglia è straordinaria, aggiunse, accennando a girarsi dalla mia parte e riproducendo, senza rendersene conto, le tipiche intonazioni di Bloch, così come ne mutuava le idee. Conosce della gente inverosimile, persone che si chiamano all'incirca Saint-Ferréol. E, staccando l'ultima consonante d'ogni parola, va al ballo, si fa scarrozzare in Victoria, vive un'esistenza da fiaba. È una cosa fantastica. Madame de Guermantes produsse con la gola un rumore leggero, breve e forte, come di un sorriso forzato che venisse inghiottito. Per segnalare che aderiva, nella misura richiesta dalla parentela, alla spiritosaggine del nipote. Vennero ad annunciare che il principe Pfaffenheim Munsterburg-Weiningen comunicava al signor di Norpois d'essere arrivato. Andategli incontro, signore, suggerì Madame de Villeparisis all'ex ambasciatore, ed egli mosse in direzione del primo ministro tedesco. Ma la marchesa lo richiamò. Un attimo, signore. Sarà il caso che io gli mostri la miniatura dell'imperatrice Carlotta? Ah, penso proprio che ne rimarrà incantato, rispose l'ambasciatore con aria ispirata e come se invidiasse al fortunato ministro il favore di cui stava per beneficiare. So che è un vero ben pensante, osservò Madame de Marsan, ed è così raro tra gli stranieri. Ma ho preso le mie brave informazioni e l'antisemitismo fatto persona. Il nome del principe custodiva, nella nitidezza dell'attacco, come si direbbe in musica, delle prime sillabe e nell'esitante ripetizione che le scandiva, lo slancio, il manierato candore, le grevi delicatezze germaniche, proiettate come ramature verdastre sullo Heim di smalto azzurro cupo, che dispiegava la misticità d'una vetrata renana dietro le dorature pallide e finemente cesellate del Settecento tedesco. Vi era incorporato, fra i vari nomi che lo componevano, anche quello d'una cittadina termale tedesca dove ero stato, bambino, con la nonna, ai piedi d'una montagna cui era toccato l'onore delle passeggiate di Goethe e dei cui vigneti bevevamo, al Kurhof, i vini illustri della denominazione composita e risonante come gli epiteti che Omero dà ai suoi eroi. Così avevo appena sentito pronunciare il nome del principe e prima ancora di ricordarmi della stazione termale, mi pareva che esso rimpicciolisse, si impregnasse d'umanità, trovasse sufficiente per sé l'angusto spazio della mia memoria, al quale subito aderì, familiare, terra a terra, pittoresco, saporito, leggero, con qualcosa d'autorizzato, di prescritto. Per di più, il signor di Guermantes, spiegando chi fosse il principe, citò parecchi dei suoi titoli, ed io riconobbi il nome d'un villaggio attraversato dal fiume, dove ogni sera, finita la cura, andavo in barca, fra nugoli di zanzare, e quello d'una foresta, abbastanza lontana perché il medico m'avesse negato il permesso di farci una passeggiata. E in effetti era comprensibile che il dominio feudale del Signore si estendesse in luoghi circonvicini e riassorbisse, nell'enumerazione dei suoi titoli, i nomi che era dato leggere uno accanto all'altro sulla carta topografica. Così, sotto la visiera del principe del Sacro Impero e dello scudiero di Franconia, quello che io vidi, prima almeno che il principe, ringravio ed elettore palatino, facesse il suo ingresso, fu il volto di una terra amata, dove più volte avevano indugiato, per me, i raggi del sole delle sei pomeridiane. In pochi attimi, infatti, mi resi conto che le rendite che egli ricavava dalla foresta e dal fiume popolati di gnomi e di ondine, dalla montagna incantata dove si innalza il vecchio Burg che custodisce il ricordo di Lutero e di Luigi il Germanico, il principe li utilizzava per potersi permettere 5 automobili Charron, un palazzo a Parigi e uno a Londra, un palco ogni lunedì all'Opéra e uno ai martedì del Théâtre Français. Non mi sembrava, né sembrava credersi lui, diverso dagli uomini della stessa età e della stessa consistenza patrimoniale, ma di origine meno poetica della sua. Uguale a loro per cultura e ideali, si compiaceva del proprio rango solo in virtù dei vantaggi che esso gli conferiva, e non aveva più nella vita che una sola ambizione, quella di essere eletto membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze Morali e Politiche, motivo, fra l'altro, della sua visita a Madame de Villeparisis. Se il principe, la cui moglie dominava il più esclusivo ambiente di Berlino, aveva chiesto di essere presentato alla marchesa, non era perché ne avesse sentito in sé per sé il desiderio. Tormentato per anni da quell'ambizione d'entrare all'Institut, non aveva mai visto, per sua disgrazia, salire a più di 5 il numero degli accademici presumibilmente disposti a votare per lui. Sapeva che Norpois disponeva, da solo, di almeno una decina di voti, cui era in grado, mediante abili transazioni, d'aggiungerne altri. Così il principe, che l'aveva conosciuto in Russia, quando erano entrambi ambasciatori in quel paese, era andato a trovarlo e aveva fatto di tutto per accattivarselo. Ma aveva un bel moltiplicare le gentilezze, conferirgli decorazioni russe, citarlo in articoli di politica estera. Davanti a sé aveva un ingrato, un uomo ai cui occhi sembrava che tante premure non contassero nulla, che non aveva fatto compiere un solo passo avanti alla sua candidatura, che non gli aveva promesso nemmeno il suo voto personale. Certo, Norpois lo riceveva con estrema cortesia, Non voleva che si disturbasse e si desse la pena di spingersi sino alla sua porta. Si recava lui stesso alla residenza del principe e quando il cavaliere Teutonico buttava là «Vorrei tanto esservi collega», rispondeva con determinazione «Ah, ne sarei felicissimo!» E indubbiamente un ingenuo, un dottor Cottard, avrebbe argomentato «Insomma, è qui in casa mia, è stato lui che ha voluto venirci perché mi considera un personaggio più importante di lui. Mi dice che sarebbe felice di vedermi all'Académie. Le parole hanno pure un significato, che diamine! Evidentemente se non mi propone di votare per me è perché non ci pensa. Parla troppo del mio grande potere. Deve essere convinto che mi basterebbe muovere un dito, che posso avere tutti i voti che voglio, e per questo non mi offre il suo. Ma sarà sufficiente che io lo metta con le spalle al muro, che gli dica tu per tu, ebbene, votate per me e sarà costretto a farlo».